Marco, qualcuno ci dici? Chi sei? Non capito. Ciao Salvatore, Claudio Sparviero, buonasera. Ehi Salvatore, eccola, c'hai anche Baracchino. Non dai faccia a Salvatore, il numero del fulano. Qua a Sassari c'è una portante che ci sta ammazzando a tutti, ci sta facendo venire la disperazione. Ma continua a dire, però, non si vuole già di più. La tradizione continua e sta diventando sempre più una porcheria, per modulare uno per potersi difendere deve stare sempre tutta manetta, tutta massimo, per farsi ecutare. Quando prima invece bastavano i zinfuvati e arrivati in tutti i luoghi. Santiago quasi no perché ascolto Salato. 8:30 abbondante, radio buona, non ci sono problemi. Tu mi ascolti lì. E tu sei buono lo stesso. Radio buona, segnale buono. Non ci sono problemi Salato. Deve essere che c'è una zona buona, io sono qua nella bassa valle del monte e sopporto solo Geravanti. Sicuramente è per quello che ci ascoltiamo, capito? Mi ha giudito Salato, io ce l'avevo una sotto mano, capito? Ce l'avevo una sotto mano, una bella radio, pochi su. L'avevo detto anche a Giampaolo, mi dissero di metterti in contatto con me. E l'ha giurato Salato. Perché mi sono disfatto di tutto, non c'ho più niente, né l'PD, né l'PO e né nulla. Ha giurato tutto, c'ho solo il baracchino e faccio il baracchinaro e basta, il resto non mi interessa più niente, Salatore. Infatti la volta a Giampaolo, digli a Salatore se le interessa, c'ho una radio per lui, visto che l'altra non funziona. Capito? E te l'ha giurata, cioè non mi ha chiamato nessuno. L'ha giurita a Giampaolo, gli dati il mio numero, di metterci in contatto con me. Sicuramente sarà ti è uscito la mente, comunque è un peccato perché ho trovato un amico che le serviva per fare per mettere nella barca, avere una bella radio, capito? A pochi soldi. E l'ho dato a lui, quella che ci avevo veicolare, piccolina, le altre grandi le ho date a un radioamatore, un amico. E vabbè, ne sono disfatto di tutto, non c'ho più niente, infatti. Ho sotto anche l'antenna, tutto non mi interessa. C'ho un'antennina nel poggio, giusto per ascoltare, ma non arrivo manco alla randrita, capito? Mi sono disfatto di tutto, certo, non mi interessa più. Ho fatto lo baracchinaro, come ti sei abbonato, voglio morire, ma manco non mi fracassa le balle di nessuno. Thank you. non so, comunque a Lucca ti arrivano a Santiago 7, tutti ti arrivano più in basso a te, non so perché, e l'antenna che antenna vai? Quasi 9.30, perché è più a buona fa. massimo lo sono impiccato. Ah, col culo. Qua a 9 più 10 era questa portante, Luca. Non c'è problema, se la passiamo continuiamo a parlare. Il problema per quelli che vengono da fuori, per quelli più deboli di segnale. Infatti, per quello, perché non ci fa niente. Ci può fare solo una cagata, ce la mangiamo pure dopo. No, io dovreste capire l'utilità, poi sto aspettando la gente che entri in frequenza. Solamente se ti fossi... Guarda, io avrei voluto fare una prova, quando siamo un pochettino, uno va a vedere sul canale 10, l'altro va sul canale 12, un gruppo, a vedere con Gabriele in particolare. Tutti, i segnali più bassi, con tutti. Ah, boh, stai pensando una cosa, boh, dico, alla fine uno ci stanca anche detto, di fare queste cose. Dico, rompiti la scatola, un pochettino, rompi la scatola e poi, questo è già da qualche settimana che sta andando avanti, non è così? All'incirca. Aspetta, il divertimento, boh. Beh, ognuno si diverte come può. Lui si stramette, aspetta, che se ne non passa, capito? Non so che dire, buh, sono già quattro gatti e già purtroppo siamo così pochi con questo fatto qua che si stava allargando un po' la situazione con questi, con qualcuno di fuori, stanno anche diminuendo anche quelli di fuori, adesso non riusciamo a sentirli perché li schiacciano. E vabbè, piano piano, si fanno con calma le cose, vabbè. E infatti tutta una volta, sai come cosa ne esce, no? Piano piano, con calma. Sono meravigliato il Google, non riuscito a beccarlo, che sarebbe stata una zona vuota, anche se io ho dei dubbi. A meno che questo non cambi di posizione, magari un giorno abita in un appartamento, una cadia da una salvata, se ne va in giro in macchina. Non ho idea. Vabbè. Io in via Pascoli. E via Pascoli avevo 9 più 30. Sotto casa di Cavo era 9 più 30. E spostandosi? Quando mi ricava a 9. Guarda, io non sto pensando anche che sia qualcuno che ha qualche direttiva e poi a momenti esce col dipolo. Non so, e se si arrangia, ma finita. Oggi perché tempo momento. Vuol dire se vi batte così lo lasciamo divertire, cosa vuol dire? Ci vogliono apparecchiature, l'unico che lo può stabilire è con la persona che abita su in alto, che ti dice la direzione a quanti gradi è la portata. Infatti, e vabbè, comunque, non ce la può fregare da meno. Vabbè, ma dispiace, dai, ti fai molte volte, ti fa una chiacchierata, stai così in compagnia e per quattro proposito masso devi stare così un po' con la scatola girato. Diciamo, eppure molte volte ti costringi anche a chiudere perché poi vuoi parlare con quelli di Alghero. Vabbè, all'alpinaggio non è che lo distruggono più di tanto, ma magari qualche un altro, quelli di Porto Toro, zone così che non arrivano tanto furti, di pure, cioè, devi smettere. Non so, ma purtroppo... Si può mettere la portante, si può camuffare. Si può camuffare nel senso con più antenne, ecco. Va bene anche un'antenna grande, una nostra, e va bene un'antenna multibanda, per dire, no? Oppure un'antenna come la nostra e un dipolo. E ci vuole un attimo, roba. Si camuffa e si gioca. Sicuramente se uno lo fa con uno scopo, dico di provare di mettersi in difficoltà già si mette. Basta che sa cambiare antenne, a commutare, a uscire alta potenza, a bassa potenza, ci sono un sacco di cose per farlo. Si può mettere la macchina, non sai che sotto quella casa lì c'è l'antenna, a quel punto non blitti, ma se fa questi movimenti così alla fine, perché magari se vai sotto casa sua, tu ci metti mezzo watt e tu stacchi il PL e magari ti arriva il segnale a 9. Infatti, non so. Vabbè, non so che dirti, non so che dirti, veramente. È un casino, però vabbè, facciamo divertire, lui che si diverte così, lui. Gariello! Uno si diverte come può, dai, bianco un attimo che sto scaldando un cappagliaccio, se no mi ammazzo qua. Vai, Natalì. Ti ho visto il modo che hai fatto, dove? La pippa col microfono continua. Aspetta, dai, a portate della Bulletti, a te macco che fa. Devo ricominciare già in partenza, non passa né a Natalino, né a Claudio, né a Franco, né a Roberto, né a Stefano, poi tutti gli altri puoi passare, ma a noi non ci passi, perciò ti puoi anche ammazzare. Ciao Natalino, come sei arrivato a invece la portata Natalino? È un bestiame lo faccio io, puoi dare a che paese in alto che c'ha una direttiva, giusto? Poi c'è un altro che è entrato, ok, allora ti devo entrare. Senti, sei? Ciao Stefano, come la tua camera le tue parti? Però cosa hai detto? 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Quindi è già una cosa, no, perché non sei fortissimo, ti qua stai arrivando, diciamo, Santiago 8 o 9, dai. La radio un po' più forte dovrebbe essere, diciamo, non è un amplificato, è un microfono normale. Ma auguri a chi ha fatto tutto. Va bene. E bene, per la salute. Beh. Adesso è andato un po' per la vita, esatto. Sembra che ci abbia lo stadio finale a Mosfet. Ma no, Vedi cosa. Molto molto delicato, Ma c'è il preparatore, da quelle cose, la faiette, le cos'è? No, sto preparando un baracchino piccolino. Certo, di là già il laboratorio alla Lucca, uscillo. Sì, basta lo qua. Ha due belle elettronica e allora ce la facciamo fare. La forza di spacciare riesce a fare qualcosa, è iniziato tutto così, rompendo, smontando e facendo, alla fine sono diventato difficile. Sbagliando si impara, no? Se non ci mette la testa dentro. Vediamo qui. Chi c'è sotto? Ma che si vuole entrare più dici? Non lo so che. Quindi l'antenna te ne ha cavato tutto qua. Cos'è? L'antenna te ne ha cavato tutto. Sì, sì, come se ne fai? Ma io quando... Aspetta che... Ecco qua. Va bene così che ho un po' troppo alto. Vabbè, io quando decido vabbè, non sto lì a minimi termini o a parlare l'inglese. Sono salito, non l'ho visto mattina, non ho tolto tutto. C'ho solo la manta dal basso. E adesso abbiamo venduto tutto, c'ho tutta la linea completa del 140. Che ascolto anche HF e batte un portatilino, ma poi c'è il magnum come baracchino. Quanto si paga la town, la colonia della linea? Allora, la colonia della linea io l'ho comprata su eBay in un negozio Tecnocomunicazioni, me l'ha mandata veramente nuova, nuovissima la sua però, quella grigia. Quella grigia proprio della linea del 140, del 440, del 680, perché l'altra è nera. Si chiama SP430, l'ho pagata a 60 euro più 10 di trasporto. Così via, quindi. Sì, mi ha fatto un buon prezzo. Nuova SP23, che non è della linea del 140, eccetera, costa 110 euro nuova. Che praticamente è uguale, solo che è il colore del 450, diciamo, là. Ma quella del 440, del 440 è diversa da quella del 440? Sono uguali, precisi identiche, cambia solo il colore e basta la scritta. Questa non la fanno più la colonnina, eh. Io ho trovata residui di magazzino da questa Tecnocomunicazione. Mi ha dato il sito Gianni, lo più rum, sono andato e ho visto che c'avevano della roba e l'ho presa. No, ho fatto acquistare lei a poco, l'ho ordinato io, la società di comunicazioni, le switching, 49 euro, quello da 25 anni che ho fatto prendere a un amico. Sì, c'hanno un sacco di roba, va bene. No, questa è proprio tutta la linea sua, l'alimentatore ho preso, il PS50, non il PS430, il PS50, il 30A, perché il 430 è il 20A, io ho preso il 30A. Sempre di linea, sempre che ho tutta la linea completa adesso, compreso l'accordatore automatico, che è la P250, no? Che già avevi visto una volta, l'ho ricomprato perché l'avevo dato e me lo sono ricomprato nuovo. Chiedo un po', perché ho visto poi che vendono anche l'altoparlante esterno con DST, li hai mai visti, li hai mai provati? Ho provato sì, quello dell'850, c'era i filtri, quello del 920, quello del 940, tutte quelle lì, quelle del 440, 430, insomma quelle piccole, le radio no, sono così le colonnine, invece quella del 940, quella dell'850 sono col DSP. Tu che l'hai avuto, è efficace, ne vale la pena o non è manco di una bici? Se preso la colonia del 940 c'ha tre posizioni di filtro, larga, c'è la normale, low, mid e poi c'è un altro non me ricordo, comunque normale, larga e stretta, ti fa la modulazione che è una cosa allucinante, soprattutto il mando laterale, molto bella la colonia 940, solo che non è di linea, io quando ho dato 940 c'avevo tutto, c'avevo già il ricorder, la linea completa, l'ho venduta tutta completa, perché la colonnina sua della radio fa schifo, invece con la colonnina esterna 940 è una ricezione è allucinante, molto molto bella, poi con quel filtro che c'ha è bellissima. E anche il 920 lo stesso, il 920 l'ho venduto con la colonnina e il microfono a tavolo, tutta la linea va. No, 940, poi sono dei più belli del TTCAM che di chi ha fatto la Kings, è più bello anche del PS2, il PS2000 è bello sì, però come aspetto fisico è più bello il 940. Il 940 è un mostro, chi ce l'ha se lo tiene, chi ce l'ha se lo tiene. Io posso dire che come kenguriano le ho avute tutte le radio Kenwood usate, provate, so come si usano e ti posso dare caratteristiche veramente, veramente favorevoli. Anche le vecchie, io ho usato figurati l'820, l'830, il 120, il 130 prima del 140, tutti a stadio finale a valvole, tutto transistorizzato, a digitale, c'è, però con lo stadio finale a valvole, capito? E ti posso dire che sono delle bellissime radio. Delle bellissime radio veramente. Ma questi filtri che ho io, questi sono optional su questo apparato. Sì, la tua è completa, la tua c'è tutto, anche la scheda fonemi c'è la tua. Sì, però, ma questi filtri li utilizzi in che situazioni, in banda laterale, cose del genere, perché in M non è che ne fai niente. Anche per una volata non ce ne vogliono filtri, quelli sono tutti filtri per le bande laterali. C'è il filtro stretto, il filtro largo, è completa quella radio. Io quando ho avuto le radio le ho sempre completate. Purtroppo il 140 non si può fare molto, però io, tramite questo mio amico radioamatore che è molto bravo su queste radio, mi ha detto guarda che il filtro si può applicare al 140, siccome c'è il tattino ALC, e funziona anche l'ALC, io inserisco l'ALC e me lo segna, però c'è applicato all'interno un relè. Un filtro con un relè piccolissimo, se tu apri la radio non lo vedi neanche perché è fatto veramente bene, e quando tu vai in banda laterale che ci sono disturbi, io cosa faccio? Inserisco il filtro e inserisco automaticamente l'NB, quindi noise blanker, il cosiddetto filtro noce che ha, e da lì mi elimina tutti i rumori, mi porta la modulazione molto molto bella. È una bella radio che ho fatto, questa non c'era niente, nulla, io l'ho comprata nuova, di zecca, imballata, come arrivata, l'ho fatta subito fare come la tua, vabbè, come la tua. Però io ho fatto la prova tra il 140 e il 440, come rumori, cioè se tu metti la stessa antenna, fai colleghi l'antenna, comunque da una parte all'altra, è molto più silenzioso il sentito del 440 del 140, e poi lo sento anche un po' più sensibile, diciamo, su certi segnali riesce a tirarli fuori meglio. Vabbè, forse perché non hai provato molto il 140, io ti posso dire la differenza contraria. Il 440 è una bella radio, però a mia cosa, io le ho provate tutte e due, si ho preso una decisione perché io non usavo, cioè non riuscivo a prendere la decisione perché purtroppo non c'era l'accordatore. E prendere la T250, a me mi è costato nuovo la prima volta la T250, che a Sassari c'erano pochissimi, anzi diciamo quasi niente, l'ho pagato la prima volta in lire 1.200.000 lire e non volevo farla con la spesa, non volevo farla, e non avevo neanche il 140, avevo il 680, avevo il 680 che pure va da Antonello, perché io mi ho riempito tutto Sassari, Porto Torres, Alghero e da tutte le parti ci sono radio in giro e funzionano perfettamente bene perché io le so usare e le so tenere, non sono di quelli che si mette a toccare perché non sono capace. E quindi questo accordatore io l'ho comprato nuovo e avevo fatto la linea del 680. Quando è uscito poi il 430, che la T250 va bene anche al 430, non al 440, allora avevo venduto il 680 a un amico di Alghero e mi avevo ottenuto la colonnina, l'alimentatore, la T250 e avevo messo il 430. Con 430 sono andato avanti per qualche anno, sempre con l'accordatore esterno, con la T250. Quando poi è uscito il 440, allora, siccome aveva l'accordatore automatico, ho venduto tutta la linea completa del 430 e sono andato avanti sempre col 440, ne ho avuto 8, figurati, 8. Dal 440 poi sono passato al 450 e così via, insomma li ho provati tutti. 450 è stata una grandissima cazzata, perché avevo venduto il 440 per prendere il 450, l'ho tenuto 15 giorni e poi mi ho ripreso il 440, non l'ho lavorato più. Poi mi è capitata l'occasione di un 140 e allora l'avevo fatto modificare, che è questo, l'ho fatto preparare turbo, ho visto che funzionava bene, allora ho rivenduto il 440, mi sono preso la T250, ho pagato 400 euro nuovo, sempre da un amico tramite internet, e basta, sono qua. Allora la cosa, questi 440 e 140 in origine non funzionano in sintonia continua, così è in AM, cioè 927. No, no, sia quello che hai tu che questo, l'ho fatto io. C'è da tagliare all'interno un dio del bat, quello l'ho fatto io perché lo so fare. Una volta che l'ho fatto a sintonia continua, siccome i picchi di modulazione sono molto molto bassi, non lavorano in AM ad un certo livello, più di 20 watt non le potevi dare perché altrimenti andavi in negativo, allora sia quello lì che questo hanno lo stesso lavoro, l'ho portato, quello tuo l'ho portato a Chiaramonte, l'ho fatto modificare, quello tuo in più di questo c'ha un sistema sullo stadio finale che tiene un bel watt. Questo siccome lo stadio finale è più piccolo, allora gli ho fatto cambiare tutto, e gli ho fatto mettere un condensatore variabile, in modo che la potenza la mantenga alla grande. Questo adesso ha 100 watt di portante, come quello lì è 200 modulati, prima ne aveva 50, 110, 120 modulati in banda laterale. Adesso eroga 200 watt sia in AM che in banda laterale. Tutto qua, vabbè, tutto qua. Ma tu hai gli archi scritti? Negativo. E allora c'era qualcuno come ti ha piazzato qualcosa? Non lo so, io sono a potenza minima, normale, come modulo sempre. Non so, chi vuole entrare? Sì, ma intanto non passa neanche, non è che anche se fischia, basta che tocco appena e non passa. Quindi, dopo fa, mi hai detto 9.40, ti arriva qualche domanda 9.40 lì? No, in situazioni normali no, solo tu. Gli altri, quello che arriva più forte dopo di te, vabbè c'è anche Franco che arriva forte, poi c'è Luca, 9.30. Franco è arrivato sui 9.35 quando sfida. Vabbè, ti ricordo che io non ho amplificatore o niente, quindi sono più che soddisfatto. No, ho provato in banda, mi sono messo il caldo, poi scegliere. In banda, meno male, ho il PS50, se avessi avuto il PS430 l'avrebbe seduto completamente, invece lo porta alla grande. Infatti l'alimentatore, quello piccolino, non so qualcosa possa andare bene, perché se lo fosse per uso intermittente va bene, ma per uso continuo quando inizia a spingere il coso lo fa caldare troppo. No, io mi sono rotto le balle qua, ho avuto tanti di quegli alimentatori che tu non hai più in testa, 30 ampere, 40 ampere, di quelli switching, di quelli trasformatore, tutti gaggati, quelli switching quando scaldano iniziano a rondare, iniziano a fare, si abbassa la tensione, un po' danno 13,5, un po' danno 13, un po' questa sale in picco, no, ho fatto la spesa, ho pagato 150 euro l'alimentatore suo, usato, sempre tramite un amico, nuovo, però non me ne sono pentito di quella spesa, guarda. Porta la radio, aveva una gannonata, quando arriva la sua temperatura si accende la ventola, la luce è bella, bianca, pulita, non si abbassa di niente, proprio perfetto, come volevo io. Sì, almeno sei sicuro, è nata apposta per quell'apparecchio, non è problema di niente, è bello anche esteticamente perché si riporta la stessa linea degli altri apparati, per cui è il bello all'ultimo, diciamo. Sì, ma infatti conviene non spendere 110 euro per un alimentatore da 40 ampere come c'è Franco. E poi pigi la portante, quando sei a 100 watt ti si abbassa la luce, cioè sono le metature che non servono a niente. Io lo dico per esperienza, non lo dico per criticare, ma perché io ho il switching che ci avevo qua su 140, l'ho preso, l'ho messo al baracchino. E uno addirittura l'ho regalato, l'ho dato a un amico che lo servito. Proprio perché non mi interessa, non ne prendo più di cavetti. Adesso ogni qualvolta compro una radio, sarà molto difficile. Io dico, se mi dovesse capitare comprare una radio, o la prendo ad alimentazione a 220 o altrimenti il suo alimentatore. No, me ne affutti più lunga, cioè inutile di fare con queste cagate perché non servono a niente. Quindi cambiando il discorso dei ricevitori, cos'è che hai avuto soddisfacente? Allora, ricevitori soddisfacenti che ho avuto io è l'FRG 9600 della Iaesio, che è un ottimo ricevitore, molto sensibile. Poi ho avuto l'R3000 e dall'R3000 io sono passato all'ICR7000 della ICOM e su quello non c'è niente da fare. Per me è fatto, per me, per la mia cosa, è stato il migliore ricevitore che ho mai avuto in assoluto. Altri ricevitori non ne ho avuto, quindi non ti so dire niente. So che ci sono delle ricevitori a livello mondiale, della ICOM e della Cable, tipo il DCR, mi pare il 9000, che dicono che è una favola, però a me non mi interessa. Io quello che ho avuto è il DCR 7000 e che l'ho venduto 2 anni fa, mi pare. No, io l'ho visto solo in fotografia, non ho mai avuto il piacere di apprezzarla. Però il sogno mio sarebbe comprarmi un bel ricevitore di quelli grossi, alimentati, autoalimentati, tipo quelli che stai dicendo tu, quelli della ICOM, il 5007 o quelli più grossi ancora, che hanno una sensibilità allucinante. Senza molta spesa puoi trovare ancora il 7000, il CR7000 della ICOM, un signor ricevitore. Ha le bande laterali, ha la M largo, la M stretto, la FM largo, la FM stretto, è completissimo. Parte da 50 kHz a 2700 MHz, quindi più di quello non puoi ascoltare. Io ho il 3000, ho la R3000, diciamo discreto, niente da dire, però non è, me l'aspettavo molto meglio guardando le caratteristiche, mi stavo chissà cosa era, però è molto limitato secondo me sull'apparecchio. È bello perché è completo, piccolino, c'ha tutte le funzioni, laterale, le bande laterali, eccetera, eccetera, arriva fino a 2050 MHz, però te ne accorgi quando senti segnali deboli, non è un granché secondo me. Lo so, no, il 7000 è un signore ricevitore, se c'hai una bella antenna come c'hai tu, un bel discone, aspetta, ricevi alla grande. Io quando non avevo voglia di accendere il baracchino, accendevo il ricevitore, faceva tutta la 27, metteva il 27, tutta la parte HF, VHF, UHF, ti fa tutto quello, non è che c'ha solo la testa, quello fa tutto, quindi per me è stato il migliore che ho avuto di quelli tra l'R3000, l'FRG 9600, non mi ricordo di averne avuto altri, e poi il 7000, perché come ricevitore a me non mi piace ascoltare, a me piace parlare, quindi una volta che poi sono andato al lavoratore ho usato gli HF, le V e le U, e quindi praticamente ascoltavo e parlavo contemporaneamente. Ascoltavo e parlavo, attenzione, adesso ne ascolto e ne parlo. Io una volta sono venuto a casa tua, o sbaglio, ce l'hai avuto tu il 3000 di recente, diciamo un annetto fa? Sì, ma non era il mio, la verità, non era il mio, ma avevano dato per provarlo perché volevo riprenderlo e poi invece non l'ho ripreso, glielo ho tornato. Quello che hai detto tu era, avevo anche il 7000 quando sei venuto tu a casa. Allora forse ho visto anche il 7000, però il 7000 è autoalimentato, non è così? Sì, a 220. E cosa invece quello della Kenwood del 5000, quello che va da 0 a 30 MHz, che tutti dicono che il top, dico, per quell'ordine di prezzo? Sì, vabbè, può essere anche il top perché è un buon ricevitore sicuramente, ha una parte ricevente molto sensibile, però è da 0 a 30, ma non me ne ha fottuto nulla di ascoltare l'HF, capito? ci sono cose molto più interessanti da ascoltare, tutte le bande aeree, io avevo tutte le bande aeree nel 7000, quindi ascoltavo anche l'aeroporto di Hermat, ascoltavo l'aeroporto di Fertiglia, cioè, ci sono cose molto più interessanti da ascoltare, tutta la parte del mare, capito? Lì invece cosa cazzo ascolti? Lì non ascolti da 0 a 30, cosa ascolti? Chi si guarda un garriaggio che fa vedere in HF e basta, a chi ascolti? Sì, sì, no, quello già è vero, non ci mancherebbe, no, anche a me piace ascoltare quelle cose che hai detto tu, niente da dire. Però dico, vai, se ti capita di ascoltare, a me molte volte, vedi, quando siamo qua in queste situazioni, sulla 27, c'è un segnale debole, lontano, magari, che tu c'hai il piacere di ascoltare e gli altri non lo ascoltano, perché tu c'hai un ricevitore molto sensibile, fa anche piacere, non è così? No, beh, sicuramente, ma il fatto che tu non ascolti con l'OR3000, l'OR3000 guarda che è un signor ricevitore, veramente, te lo dico perché io l'ho avuto. Il fatto che tu non ascolti può essere anche un fatto di ricezione d'antenna, una posizione un po' particolare. Quell'antenna già è messa in una posizione che io non l'avrei messa, te l'avevo detto, non l'avrei messa io sotto lì, ti ho detto, sei a casa tua, c'hai poco quanto vuoi, metti un'altra taffa a fianco all'antenna, la tiri su con 4 metri di palo e la fai lavorare all'altezza della mantova, capito? Perché sotto lì un'antenna del genere, tieni conto che c'è i radiali attaccati al tubo, il centrale che è in mezzo quasi ai radiali della mantova, i radiali piccoli che sono tutti attaccati, cioè non sta lavorando bene, quelle sono antenne che vogliono spazio per irradiare bene. Sì, no, quello c'è veramente ragione. No, ma no, come ricezione io parlo, taglio, funziona discretamente, diciamo, dandogli un punteggio gli do 7, però sinceramente mi aspettavo molto meglio, io ascolto tutto, sono arrivato anche su fino a frequenze alte, riesco a ascoltare bene, però ho notato, nelle bande centrali, vabbè, quello può essere anche un problema di antenna, dividete le antenne, secondo me, per avere una resa migliore, la modulazione di frequenza, cioè le radio private, io faccio la prova su certe frequenze che conosco, sulle radio private, che so dove sono, l'estate in automatico non ha la sensibilità di fermarsi, se invece ci vado manualmente a cercarla, mi metto l'attenuatore e tutto quanto, mi arrivano tutti i disturbi, la prende, riesce ad ascoltarla, delle emittenti lontane, quelle che arrivano da fuori. E quello lì secondo me è un limite, magari con un ricevitore molto più selettivo quel discorso non esisterebbe. Sì, come scanner, come scanner da un po' a desiderare, come scanner sì, però se vai manualmente, ti cerchi la frequenza, la centri, è una ricezione favolosa, io l'ho avuto, però vedi anch'io quando avevo il ricevitore avevo il discone che era separato dalle altre antenne, distante, tirato su con un palo mi pare che era da 4 metri e lavorava benissimo, non c'era niente di ostacolo, mentre tu c'hai l'antenna ricevente che è troppo attaccata a quella del trasmettitore, in questo caso la mantova. Sono molto sensibili, sembra così, però le antenne riceventi vanno bene quando sono distanti, quando irradiano bene, che la massa quindi dei radiali ha una bella ricezione. Se invece la tieni attaccata ad un'altra antenna non irradia bene, capito? Quindi la ricezione sì, la senti lo stesso, però se tu l'antenna la metti in un'altra posizione da sola, vedrai che riceve ancora meglio. Sì, no, non c'è un bravino. Poi magari mettendo un'antenna specifica per dire ci da queste frequenze e ti metti quella, poi per l'altra frequenza te ne metti un'altra, riesci a commutare e magari sicuramente riesci a farlo rendere meglio. No, ma diciamo sono soddisfatto, non ho niente da dire. Però vedendo questi ricevitori, questi che mi stai nominando tu, un apparecchio più grande, con un bello strumento grande ad ago, con la display bello coso, bello esilente. Questo è bello perché è piccolino, diciamo, è comodo, portatile, è troppo portare appresso, però quando vedi i nomini di quello che mi hai detto prima, lì sono accaduti. Non ho avuto grossi ricevitori, però io quando ho avuto la possibilità, è ancora molto alto come prezzo, un CR7000 non lo trovo nemmeno di 600 euro, quindi stiamo parlando delle vecchie lire di 1.200.000 lire circa, però quando è uscito il CR7000 costavano abbastanza soldi lì, portava una barca di soldi, è come i gemellini che avevo io, no? Il 275H, il 475H, e quando sono usciti erano il top, e sono attualmente il top della Icom come trasmettitore VU. E caspita, non penso, allucinante, parlavo l'altro giorno con Walter, gli amici in fiera, e dice che è una cosa allucinante, cioè 700 euro un ricetrasmettitore VHF da Icon. Ti parlo di ricetrasmettitori che hanno già 6-7 anni, capisci? Sì, purtroppo quando c'è il mercato, anche questo la R3000, io prima di prendere, io l'ho preso a cambio, diciamo, dato dalle cose, e mi hanno dato questo, ho aggiunto dei soldi. Ho visto il prezzo, avevo chiesto quanto costava nuovo, costava 970 euro, scontato, dice ti faccio questo prezzo, perché costava più di 1000 euro, 1200, sì, 1180 costava. Mi ha detto, te lo do 970, se tu vedevi, perché ce l'aveva una volta in magazzino, perché non è neanche più in produzione la R3, se aveva il modello successivo e costava di meno di questo qua del 3000. Insomma, per dirti, cioè, sono apparecchiature che tengono molto il prezzo, soprattutto le apparecchiature Icom, non tanto quelle Kenwood, che sono calate moltissimo, anche perché la Kenwood, oggi come oggi, attualmente non ha presentato una nuova radio come la Icom, che ha fatto 7.008, come la Yaesio che ha fatto la 79.000, è una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. Un metro lunga di radio per un metro larga, una cosa pazzesca. L'ho vista dal vivo, mi sono spaventato, con monitor dove puoi tenere sotto controllo tutto il mondo, ma proprio tutto il mondo, non sto scherzando, veramente è una cosa allucinante, molto molto bella. Quelle sono radio, quelle già parliamo di radio, non liquidi cicalfusi qua, quelle sono già radio, una cosa pazzesca, veramente. Ci vuole una scrivania solo tutta per lui, eh. È una... veramente sono rimasto scioccato. Una radio grandissima, enorme, compatta a tutti gli effetti, con mille cose, mille. Tu immaginati che se compri l'accordatore Yaesu, no? C'è l'accordatore ne ha due o tre incorporati. Se compri il rotore dell'antenna, un radiomatore per dire il rotore Yaesu, e tu colleghi il cavo direttamente sulla radio, hai il control box direttamente dalla radio, con tanto di monitor per seguire il rotore, una cosa allucinante. Stai parlando di apparati che costano oltre 10.000 euro, questi sono giocattolini, questi che almeno quello che ho io con conto di quello, non ti compare di manco la manopola con i soldi che ho preso per prendere questo. Quelli sono già apparecchi già professionali, diciamo, per uso super professionale. Questo invece per chi sta iniziando, infatti dicono sempre che è una cosa, iniziamo sempre con un 140, poi con un 440 e poi si fa finire a quelli che hai tu quando sei diventato professionista. Dai. Arriva a quei livelli, guarda, è veramente, è arrivato al massimo, proprio al top dei top, veramente. Ce l'hanno qua, veramente bello, sono rimasto scioccato. Una radio, cazzo, ci vuole, la mia scrivania forse non basta per mettere quella radio, è grandissima, veramente grande, compatta, e beh, una radio da 13.000 euro, 12.800 euro, non si scherza, no? Certo, una cosa bellissima da vedere, da... certo ci vuole molta molta attenzione e leggere molto molto il manuale per usarla, perché vabbè, se ti dico che c'è Abu, avrà un 500 tatti, una cosa allucinante, con questi manopoloni che... La manopola del VFO è grande quanto la colonnina esterna, è grande quanto la colonnina del Kenwood, è rotonda così, grande, una cosa enorme, la riprende da mano piena, favoloso, veramente favoloso come radio, non l'avevo mai vista. Ho visto in foto il 7008, ma la 79.000 se la mangia, il 7008, ma se la mangia nudo e crudo, certo che bella radio, veramente. E vabbè, non è cosa sicuramente per me, è forse neanche per te, non lo so, non ti faccio i conti in tasca, no? Ci vuole gente che abbia denaro. Sì, vabbè, a parte il denaro ci vuole gente che la deve utilizzare, che abbia la possibilità di utilizzarla, perché è inutile che sei su e non te ne fai niente di una cosa del genere se non hai la possibilità di utilizzarla. Dico, è il tempo per utilizzarla, perché ti fa perdere anche un po' di tempo metterci in mano su quella radio. Vabbè, tanto per avere quelle radio, a parte i soldi che uno per la passione fa quelle altre, io non è che ripeto, non ho la possibilità di farlo. Lo fa bene a farlo, perché è giusto che sia così, e i soldi quando vengono, la passione le mani. Però ci vuole anche, giustamente come hai detto tu, le capacità e la voglia di usarlo, non è che uno lo prende e lo tiene lì. Ci vogliono antenne, ci vogliono tante cose, perché quella è una radio completissima, che fa tutto, quindi devi avere anche le antenne per soddisfarti. Altrimenti è inutile che ce l'hai a dire, ecco, c'ho un 7008, un FT9000, ragazzi, nel vai per attacchi al culo, perché non c'hai antenne. Quindi chi ha quelle radio ha soprattutto la passione di usarlo, eppure ha le antenne. Alle antenne ci vogliono direttive, ci vogliono antenne buone. Una radio da 200 watt, piccola, una radio con un finale da 200 watt. Quindi non è un giocattolo, io l'ho vista, è spaventoso vederla, rimane così. Come la guardando, sei grande quanto la mia scrivania, tu c'è una radio da un metro per un metro, o un metro lunga per un metro larga, una cosa spaventosa, alta, sarà alta, 50, è spaventoso, è un mostro, veramente un mostro. Luca, dimmi, sono qua c'è? Luca? Che ha fatto? Mi ha chiamato dall'altra parte, non so. Non mi vale parlare di là, già c'ho i problemi miei, non voglio crearmene altri. Sto qua, io ho deciso di rimanere qua, rimango qua. Vi ascolto, fate quello che volete, ma rimango qua. Se poi capita che volevo dire qualcosa, vuol dire, ve lo dico, ma preferisco rimanere qua. Potete parlare lì, io vi rispondo qua, non c'è problema. Forse era Franco che mi chiamava, voi. C'è anche le pennacchiette adesso, chi è? C'era una pennacchietta a Santiago Prelo, bella registrata. No, l'ho girato un attimo, non ci ho fatto niente. Abbiamo sentito in mezzo alla fare insieme a Luca, l'abbiamo sentita, per pennacchie, tutti di tutto l'abbiamo sentito. Sì, vabbè, no, meno male. Per qualche minuto abbiamo fatto due chiacchiere come cristiani. Siamo scambiati due re, due cose. Veramente vergognoso, io ho cercato di prenderlo in tutte le maniere questo, ma non si capisce con chi ce l'abbia, se vuole, se ce l'ha con qualcuno personalmente, non lo so. No, non è questione di avercela con qualcuno, perché se ce l'ha con te o contro di me avrebbe dato fastidio a me, a te o a chi per sé. Qua il problema non fa parlare a nessuno e non fa ascoltare a nessuno soprattutto. E solo quello c'è qualche problema di infiltrazione al cervello, cioè, perché non è possibile. Cioè, uno se ci vuol vendicare ti dà fastidio tu, quando parli tu ti schiaccia, oppure ti fa disturbare quelli che stai ascoltando, ma questo con tutti lo fa. Non so cosa dirti, evidentemente ha qualche problema, se no non sarebbe comportato così come si comporta. Però ognuno, ripeto, fa le sue scelte. Io ho fatto una scelta, che è quella di rimanere qua a 27, di giocare, di scappiare, di comportarmi in maniera equa con tutti. Seppure qualcuno le va bene, è paziente. Purtroppo ci sono sempre rimasti. Beh, grazie, io per me ora di smettere, dai, ci sentiamo, ti saluto. Mi metto in officina con la roba, se ti capita di passare, dici a Coso, a Franco, che mi fa la cortesia di vedere i tuoi collegamenti. Sì, avanti. Vabbè, d'accordo, dai. Non ci sono problemi. Meglio cosa posso fare, d'accordo. Ciao, ti saluto, alle prossime, stammi bene. Buon QRT e buon tutto. Ciao, ti saluto, guarda che c'è qualcuno sotto, senti, se lo sta provando, non lo so. Avanti, il suo disco vuole entrare. Roberto. E dimmi tu. A me senti, dammi un controllo, 1, 2, 3. Brava. La radio non mi piaceva da un benazzina, comunque sei sui 9.30 quasi. 9.30, vabbè. Ah, c'è, aspetta. No. Non è problema. Non so, c'è qualcosa che non va. I picchi sono belli, belli presenti, belli larghi comunque. C'è qualcosa che non va, quindi la giambata mi stuccappa io, se no non dormivi stanotte, il problema c'è qua. E si conferma, e si conferma qua. Quindi, tu hai fatto una cosa che secondo te era da fare, però non è così. Perciò, quando io dico ci vogliono strumenti per capire cosa c'è una radio, o qual è il danno sul motore di una macchina, ci vuole il meccanico, e come dico io, capito? Adesso quello lì, tu c'hai l'aspirastagno, c'hai tutto, no, c'hai tutto quanto, l'hai salvato bene, hai fatto tutto bene. Eia, eia, sì, però no, c'è qualcosa che non riguarda sul KIA. Scusate, c'è qualche condensatore in perdita che mi fa quel problema lì. Può essere anche altro, attenzione. Vabbè, io lascio anche io da Luigi, non se ne parla più. Così non sono guinata su questi malacchini. Purtroppo non è capo piede. Quindi se fosse male per cambiare un finale lo farei a occhi chiusi. Però siccome non è problema di finale, perché in trasmissione va benissimo, è un problema di ricezione. La parte ricevente è staccata dalla parte del trasmettitore, perciò siccome ti ho già detto che per la parte ricevente ci vogliono strumenti adatti per vedere se l'oscillatore di frequenza è buono e la parte dell'oscillatore ricevente è buona, tu strumenti non ne hai, quindi non ti mataneggi il gabbo, vai solo a danneggiare una cosa che è buona e che funziona, perciò ti ho detto, lo chiudi, lo dai a Luigi, lo manda da Giancarlo e tu vedrai che quella radio torna nuova, tu non devi fare altro che pulirla e boh, senza toccarla. E infatti sì, il saldo in filic dalla colonnina me lo chiudo, dai, un attimino, mi devo sapere l'ora anche, sono 10:20, siamo da più tardi. No, sono 10:20. Franco, intasato grazie, però ci sarebbe fatto lui se dovrà dire. Comunque a differenza da detta il nostro film lì, ma sa fa un bel più di Gozzi, ma non è detto che sia più bravo di te, è che si impegna e le Gozzi di Vasi, e lei soprattutto il ridosso a chi ti sta dando, no, dici che è così, non molla. Sì, voi te la conto un po', non è un problema. Se tu ti servi in bagno, io ti pongo un po' di trittolo, ti bugiappano, io te la conto, non è un problema. Poi si può fare. Pongo un po' di trittolo, poi ti bugiappano, che si devi fare. Da voi, qui c'è un telecomando, e poi inizia da qui, ti fai il burro di un comodo. Tu mi sono interessato, era un burro, mi sa. E poi ti faccio il burro due, io ti fai, e lui ti faccio il burro e non lui. Chi non è rimassaggiato di un massone, non è mica tu vedi, però chi si va a chiusi da tenere tu non andava, pure piano piano si è impegnato, si torna qua, gioca qua, torna a questo, va a quello, salta a quello, salta a quello, da un quarto e mezzo, era un quarto e mezzo, però va, va, però comunque la prova a te, lo lascio a te, vediamo un po' come ci riesce a fare l'altro in cui vado a 4, va, facciamo 4 watt, fai a 4 watt, 4 watt e mezzo modulato, ci vediamo qua, poi l'appuccio. Ma capita, che vuoi fare diverso? Comunque è impossibile, guarda, boh, io riesco a capire come cazzo fa quella radio un watt e mezzo a uscire così, 9.40, boh, con un pezzo di giro. E il bello che poi ti ho sentito io a poco torres, con un fatto e mezzo. Dice un baracchino che non avete nei confini con un fatto a Porto d'Orla. Yeah. portarsi lo dai, lo giallone, lo mette a un angolino e quando vuole tira lo garrellino, no, invece la moglie non vuole. Vabbè, ognuno fa quello che vuole a casa sua. Io me l'ho già fatto da una parte all'altra, pure un uomo lo può sapere lo baracchino. Cazzarella viaggio fatto pagando un migliaggio. La cazzarella quanti vuoi? Si c'è bendeggia. Io c'è uno che ti ha salutato, mi lo. Ha detto ciao Lu. Ha detto ciao Lu. Ah boh, non so chi è, no. Allora, con lo scalacco. Osaccio, osaccio. Chi è? A chi non è? Cosa vuoi dire che ho sentito ciao Lu? No, ma per te è più forte di Franco, però. Arrivato qua, qua. Ah? Qua non è neanche arrivato. Chi? Ciao Lu. Ma dove stai ascoltando tu? Ah, beh, allora non lo so. Io sto ascoltando qua a voi. Ma io sto ascoltando a Franco con Luca e stanno parlando di un'altra frequenza. Io sto parlando qua. Ma non è nelle PD. Ah, vabbè, io pensavo che era qua, infatti non è neanche arrivato, è qua. Ma no, non è più io del PD, non c'è più niente, c'è solo il... Questa linea qua è un portatilino, che abbiamo in tre, praticamente, non c'è nessuno. Niente di particolare. Ah, vabbè. E io parlo a nonna, dai, saluta a Claudio. Saluto. Ciao Claudio, diglielo. Saluto. Claudio. Buonasera. Alla là, dico. Ciao alla. Ciao. Vai a fare a nonna, perché sennò pure un casino. Ciao anche Gianni. Un attimino, torno subito. Ehi, ehi, ciao figlio. Ciao Gianni. Ciao piccolino. Ciao amore bello. Chi è Gianni? Gianni, salutalo. Ti sta facendo ciao con la mano già. E vabbè, c'è per saluto, anche se non lo vuoi. C'è per un bel saluto. Ma bravo, sta facendo. Insomma, così così è. Cattivo, cattivo. Ciao Lisce, ti senti? Ehi, ciao. A pomponi, vabbè. Davvero, vedi, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora. Chi te vi conta, Giavi? Adesso cosa ti racconti? Boh, sempre in giro, so. Oh, Claudio! Giro il nome, sto facendo. Ehi, aspetta, avanti Luca, Claudio si dovrebbe essere spostato leggermente. Non in casa, c'è di tutta questa in casa. Oh, Poppo, sono passato a prendere qualcosa, ma va bene, ho castumato un trombone, un potenziometro. Quello non è il trombone, quello è il tuo suo, quello per il proprio. Poi devi tagliarlo naturalmente, mica te lo vado così cotto, no? Se sei intelligente, se sei arrivato, devi tagliarlo, no? Poi metti la mano e poi sei a posto. No, va bene, c'è tu per i piedini, cazzo. Allora, noi c'avevo da giovedì io che era inverso. Cambia, non è quello che stai dicendo tu, allora, è un altro modello quello. Comunque, quello lì è il potenziometro del trasmetro, del TM1000, quello che ho io, preciso, e anche del modello 500. Ma che io posso dire il TM1000? Il mio è HP201, non è un TM1000. Capito? Certo, ho capito quello che stai dicendo. Devi guardare il coso centrale, se va bene va bene, se non vuoi pazienza, non cambia nulla, non è successo niente, no? Sì, ma io ti ho chiesto, non ci sono curiosità di nulla, Io ti ho chiesto, se avevi il potenziometro della KP201, tu me la dici del TM1000, non va bene, perché non va bene? Ma ti sicuro, dico, ma poi me la buca la organizzi cusetto, ma non vedo che me la vado in mano, no, da me. E certo, tu l'altra 500 la conosci, io no. Io ho trovato il pezzo che avevo io, qualcosa. Io l'ho scritto tu, non l'ho visto, quindi non so com'è il pezzo. Se avessi visto quello, ti ho detto, vabbè, io ce l'ho, tu, vado te lo porto. Non cambia niente. Siccome l'ho visto, cosa ti portavo, cazzo, direttamente andavo alla Inter che ti porti i conti qui. C'avevo solo quello. Sì, però io ti ho chiesto il potenziamento della KP201, tu mi hai detto lui l'ho trovato, non lo so, ma di sicuro tu mi domandi, lui c'era un finale di, come ti posso dire, di un Typhoon, e dico sì, c'era un finale, poi dopo un finale di un A48, è diverso. E non cambi molto, no? La verità, è corrispondente comunque. Sono diversi. Forse tu hai più esperienza di me, ma sono diversi. Ti ha controllato tutto, non vanno bene, sono buoni, non manda. Già anda, io visto la voi fate a certe persone, a voglia se va. Ti va meno, va che te lo va. Vabbè, comunque un problema va bene. A parte che quello che ho io, i piedini sono rotondi, non so là che come ti su duio, dovrei, ma si può che vada bene, poi dovrei allargare tutti i buchi del coso, non è cazzo fare, lo rovini. No, ma non me la fuggi nulla, se non so fa pazienza. Ma no, perché un altro mio, ce l'ho io, tu mica diverso mi ha tu. Cioè, ma quello per regolare la. Quello di su e quello di sotto, quello per commutare per i watt e quello per regolare le stazionarie. Sembrava secondo Cabuleto che avrei preciso, però è diverso. C'era un diverso, altro, quello lì nel mio non si può. Aspetta, c'ha ragione, più largo. Ho capito, prova a modificarla la Luca, questa niente vuole modificare, ma se c'è un test, ne hai. Anzi, mi sembra di uno franco di test. Sì, ma prima tu modifichi, va bene così. Tanto se 75 scatti c'ha, chi si preoccupa sicuro. C'è l'incasso uscita. Allora ti modifichi così, sei a posto. Non cambia nulla, non è che. No, ma non mi interessa, già va, già funziona, solo che ogni tanto sballa. Provano a calibrare o controllare il watt, fa diventa impazzisce. Allora un colpettino della potenziometro si riprende. No, ma non mi interessa. Se riesco a rivedere, va a comprarlo anche. Si copre via, adesso ho pazienza. Non c'è problema. Perché quello di che mi ha dato Antonio c'era tutto, c'era tutto anche il pezzo del circuito, attaccati. Infatti io l'ho detto a Antonio, anche facciamo una cosa, attacchiamo i fili e la attacchiamo lì. E lui mi ha detto, lui non si può fare perché bisogna tararlo. E tarare quello strumento lì è un casino. Ha detto, ecco, allora usci e me lo devo usci. Non ha più pezzo la paramondezza. Vabbè, pazienza, volevo accontentarti, altro non ti posso dire. Ci ho provato, non è successo niente. Al limite usi come commutatore d'antenna, fa l'ingresso e quattro uscite, non cambia nulla. Ma io ho lasciato, vediamo Franco, il dottore non glielo mai può servire a lui, magari. Non posso dare un po', ma può servire a te, può servire a qualcun altro, mi stavo chiedendo, glielo dai. Io ho lasciato. Perché non va bene? Vado dove mi serve, al limite ti do la parte, non cambia niente, ti fai un commutatore d'antenna e non c'è problema. Già costa poco a farlo, non costa molto. Ah vabbè, c'era la torcia che ho perso il filo là. C'è Claudio Tino, non so chi c'è rimasto, avanti, chi c'è? Sento Pompo e voleva mangiare qualcosa, mi stavo saldando con sto campagna che mi ha dato Franco, ma non va bene, non lo so, ma se lo mando a Cagliari lo faccio mettere a posto. 7205 di Capaia, la 17 non va bene. adesso è il... aspetta, è il... aspetta, no, ma tu più. Vedete, no, aspetta, adesso un cellulare. Dove consulta? 22, mi pare 17, aspetta. Allora, ho messo qua, ecco qua. Allora, non guardo nulla. 722 17. Non va bene, è il verso di... cioè la pigliatura è uguale, ma non va bene, te lo sto dicendo io, è molto più grande quello che stiamo montando adesso, invece l'originale è leggermente più piccolo, quindi quando lo infili, quando ti pieghi i piedini va bene, invece quello che ti hanno dato adesso è un casino perché rimane più largo e non potete tirare tra il raffreddamento. Poi sì, lo so, ma quello originale, l'originale è 722 17. Originale. Com'è? Ho dubbio la sigla. Dice 7205, no 17, mio. E 7205 a primi. Ma qui dove hai scritto... c'è un'altra sigla. Allora abbiamo già, abbiamo cambiato. Comunque quello del Mila è 7205. Allora, 7205 AP, non basta, è quello modello fine che c'è lo chassis, con i fili ci metti il pezzettino, si blocca, poi avvitti e va benissimo, nello stesso foro. Invece, quello che stai dicendo tu è un pochettino più alto, quando vai a infilare uno chassis non infila perché i buchi non ci sono più, capito? Ti tocca avere lì che piegare la vetta all'interno e fare le... raffreddare con il coperchio di sopra, tutto lì. Poi quanto va? Due mesi e mezzo sei nuovo come prima. Allora, quello che c'è sotto è 72-17, quello che c'è adesso è suo. Io gli ho messo 72-22 o 23, si vede male, non so se è un 2 o 3. No, 725 AP è l'originale, staccano di tutto, tutti i dini, allora hai sbagliato il KIA, ecco perché ti fa quel difetto. 725 AP, ricordati il KIA che monta quello, monta, lo monta anche la Inter, che lo monta anche la Midland, quello che vuoi. Comunque è 725 AP. Adesso me lo segni, là. Scusate, lo stavo cambiando, l'ho sbagliato, ecco perché sta facendo quel problema lì. Per carità, che lui ha. Quanto costa tanto è? Costa da 2 euro, costa molto. 7205 AP. Via. Quello che monta anche quello che c'avevi, ti dico di guida che c'avevi prima, che avevi cambiato un giorno. 7205 AP. Ci metti quello, è perfetto. Non cambia, al primo zocco funziona. Brava, io cambia. Quello che è sotto è 72-17. Ah, hai sbagliato, non va bene. Togli di tutto. Cavallino, futtidini, la mia retta. Scusate, li hanno sostituito un po'. Non lo so. Ricerco è male, a me è male. Ah, appunto per quello. Oggi sì. Impaurito. Impaurito, tutti impauriti sono. Oh, no, io ci so. Ah, già, meno male. Già, buscami un baracchino di quelli da buttare, non me ne frega niente, da proprio che non serve a nulla, no, mi serve il trasformatore che c'è in terra. Mi serve uno di quelli, boh, senza buscarlo. Da qualcuno che ce l'abbia per pezzi, come ti posso dire, viene attaccato in finale, non me ne frega niente. Integrate, non me ne frega niente, mi serve il trasformatore che c'è dentro. O celeste o rosso, quello che mi serve è quello. Poi va a chiederlo a Walter che ne ho di questi apparati qua, magari io non funzionano, fanno. Poi gli ho chiesto, non me, ha detto che non può darmene perché dicevo da lui. Non io ce li ho tutti funzionanti, se no volentieri. Ce li ho tutti funzionanti. Non tu chiede qualcuno che ce l'abbia magari, che non ce l'ha per pizzi, che non sa cosa fare, che ce l'abbia il disco spaccato, non mi ha fatto nulla, mi serve solo il trasformatore, mi serve altro. Ma con la GBC ce l'ha, perché ho chiesto. Se no me l'avrei comprato per 5-6 euro, altri 10 euro. Non viene, manco quello. C'è una stazione, un trasformatore, stazione fissa, da 220. Un trasformatore che c'è dentro la baracchina, visto che trasformatore vicino alla finale audio, quando c'è altri piedi da una parte e dall'altra, mi serve quello, non mi serve altro. Non mi serve trasformatore 220, dico di no quanti ne voglio, te posso anche regalare, c'ho anche addirittura le colonnine nuove nuove, per il baracchino. Quasi 40, prima ci voleva 5-6 euro per comprarle, io sono ne ho 40 di quelle. E cosa ti sei rotto? Ti sei rotto qualche cosa? Mi sei rotto quel trasformatore e mi serve il trasformatore per un baracchino vecchio. C'è un peccato lasciarlo così. C'ho dentro anche un po' di 6 canali, ci vuole il finale di trasmissione e non riesco a trovarlo. Però l'avrei anche messo a posto, ma no, ce l'ho qui buttato a casa, mi dà che fastidio quello così i stopponi. Quello già me lo ricordo, quello che c'è il microfono che scava per l'interno. Ma se non trovi i pezzi cosa fai? Ma ce la faccio più la casa della moglie a buttarla. È una bellina, era piccolino lui. E serve la ricezione al microfono. Ehi. Come non si trova il finale? Non c'è nulla, Sasa, non c'è più nulla. Vabbè, ma quelli sono pezzi che si utilizzano anche per altre cose. Sono proprio pezzi, non è che siano... Mancano la cosa del concetto. Non c'è nulla, non c'è proprio nulla, c'è nulla. Ma che vai, se ti compri una pellicola intera lo usi per pezzi, cosa vuoi fare? Ma se vi capita lì non c'è problema, io ho un attimo di apparecchio, un Galaxy Saturn ecco, e ce l'avevo tutte queste cose. No, il Galaxy con il trasformatore non ce l'ha. E ce l'ha più grande forse. No, ce l'ha più piccolo. Vuoi dire? Che apparato mi stai parlando? Parlando di un Midland io ho un Midland 40 canali e mi serve trasformatore. Guarda, quello c'è l'FM500S, c'è un FM500S, c'è tutto, mi manca trasformatore. Se no avrei tolto da lì. Alla sfida. Beh, comunque nel Midland si dovrebbero trovare in vendita o no? Ah, c'è, so che è stato lì, no? È stato lì, quanto vedete sulla torre, dicevo non ne ho mai detto. Ma neanche ordinarlo, dicevo non neanche ordinato, mi ha detto, cioè, quando si riesce a recuperarlo da qualche baracchino vecchio, mi ha detto basta. Che e vabbè, io non è che mi fido più di tasse a quello, perché adesso che mi ordinava, vi dava questa limitatore, io tre volte che andavo, mi rimandava dei mesi e mezzo, di domani la rifa, domani la rifa, alla fine mi sono piccato e l'ho giocato di volta dalla carta. E hai fatto bene. Ti ho detto, se i clienti così non si trattano, è solo per comprare gli apparati grossi, no? Lui ha detto, ma se io l'ordine non mi arrivo che colpa ne ho, però non posso fare l'ordine solo per l'apparecchio intero, non dire basta, non dire che l'ordinato che arriva domani, arriva la prossima settimana, dimmi che non lo voglio ordinare e basta. Io questo toglietto mi sembra un trasformatore della Midla, ce l'hai? Dice no, non ne ho, ma con l'apparecchio vecchio c'è, dice non c'è neanche riparazione da buttare. E che cosa faccio? Ci butto l'apparecchio 40 canali che c'ho? Dai, tutti così, cazzo, ma lo sei, ma così, e a me mi ha parecchito 40 canali così, ho detto nuovo nuovo, mi hanno regalato, ho detto, non me lo tengo così se permetti. Vado nel sistema, me lo tengo da parte, al limite se serve qualcuno dirò presto, però così non lo voglio vedere l'apparecchio, ho detto, mi dà anche fastidio. Ma io sono convinto che se vada grassi magari il pezzo è fru. Lu, paga per chi chissi, non ci vado neanche. No. No. E perché mi rende la marca che si dovrebbe trovare il PT? Forse so che troppo buscare. Non per quello c'ho problemi. Se lo dovete ricare, io lo pago da sola cosa, se vuoi 5 euro, 10 euro, quanto viene, non me ne frega niente. L'importante è che me lo dia a casa. Allora, Luigi Vulcano te lo conosce? Sì, ma non lo vedo spesso come lo vedete voi, la verità. Io ho visto solo una volta. Beh, comunque lo puoi chiedere, lui c'ha un amico che lavori sui Midland e roba del genere, c'ha un po' di apparecchi da parte, pesi e contropesi, quindi magari ce l'ha. Posso chiederglielo se ce l'ha, solo faccio una andare a recuperare i baracchini antichi. Ti metto il coso sull'occasione, c'è casi baracchini, 10-20 euro, vedrai la gente che me li porta a un certo punto. Cosa, poi cosa me ne faccio? Ci butto la mombezza. No, ti conviene comprare il pezzo direttamente, quell'amico di coso al negozio Milan e ti ordina anche il pezzo. Tutto male che vuole ce l'avrà la papa. I baracchini diciamo prima stasera che non si recupera un pezzo mi pare un pochino strano, anzi aspetta la mia tesa, cosa faccio? Telefono andiamo a ricomere, se c'è quel 540 poi me lo faccio dare, io sacco il pezzo da quello anche sentiero che funziona, metto a posto quell'altro. Claudio, c'è anche il 2009 è andata lì come, preciso identico a quello che ho io. Ecco, perché non so come ti ho detto io, chiedi a Luigi, ma a minute lo fa lo stesso lui, magari te lo fa il favore. No, non ho confidenza, lo sai, non mi va di chiedere cose così. Capo, vedi quali. Esci che me ne vado a dormire, sono un sacco molto. Ti saluto, buonanotte, saluto a tutti gli amici ascoltoni, tutti quelli che ci hanno ascoltato sino adesso. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo alle prossime.